Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. E ci siamo dal Groove Master Studio, siamo pronti per augurare a tutti voi buon Natale. Vorrei essere preciso, perché sennò vengo ripreso anche questa sera dal nostro Francesco Tromba. Buona vigilia di Natale. Buona vigilia a tutti. E mi sembra qua di essere quasi in una friggitoria, non so chi di voi è impregnato di fritto. Non sono io. Non sei tu. Scusate, sono io. È il Tromba, è il Bomarzi, l'ingegnere del suono Bomarzi ha portato con sé che hai delle pettole nascoste in tasca o proprio provieni da casa. Da dove vieni? No, guarda, la casa mia è una camera iperbarica del fritto. È che nonna, mi sa, eh? Sì, mia parenti, nonna. Va bene, quindi aperta. So già che cosa mangerete questa sera. Fritti di tutti, fritti di pesce anche, credo, di no? Pesce. Tu mangi pesce questa certo, sera, vigilia. Pesce, perché mangi pesce? Perché la tradizione vuole questo. La tradizione di chi? Questo. Mia nonna, mia madre cucinano questo. Ah, perché loro cucinano il pesce, non sì. Per motivi religiosi. Non lo so se ci sono anche dei motivi religiosi. Lasciamo stare, buon Natale, buona vigilia di Natale a tutti. Oggi anche noi, fra pochissimo, raggiungeremo le nostre famiglie per farci una grande piccola, mangiata. Piccola, grande abbuffata. Sì, no? Assolutamente. Ce la meritiamo anche noi. Sì. Mi sa di sì. Però prima di andarci a fare la piccola, grande abbuffata di pesce e non, direi di ascoltare anche un po' di musica proprio con lo spirito tipico del Natale. E infatti ho fatto una selezione particolare. Non solo sono dei grandi classici di Natale, ma la selezione è stata accuratissima, perché ho selezionato titoli che all'interno hanno la parola Natale. Quindi solo canzoni con scritto con Christmas. Con Christmas, brava, vedi che ci sei arrivato. Ti è piaciuta sì, l'idea? Bella. È perché sennò qua ne uscivano centinaia. Siccome abbiamo soltanto la domenica 6 brani a disposizione, dovevo fare una selezione. The Original Christmas Compilation. Esatto, bravo. E questa dovremmo farla per la prossima stagione. E visto che funzionano soltanto le compilation di Natale e molti artisti si dedicano a questo tipo di produzione, ovvero la realizzano d'estate, però poi... intorno a fine ottobre, primi di novembre già vengono fuori l'album, e la stessa cosa l'ha fatta Gregory Porter. Perché alla fine è anche un bel regalo da fare a Natale. È un bel regalo e comunque tiene alta la vendita del CD. Eh sì, forse è uno dei pochi e rari momenti in cui si vendono i CD. Anche se ho notato, girando per bar e ristoranti, che in molti utilizzano come musica in sottofondo compilation che si ritrovano belle fatte in internet. Eh sì, certo, sui maggiori siti di streaming ci vuole, metti quella, metti canzoni di Natale, Christmas songs, e partono compilation di 6-7 ore sì, a voglia. Addirittura. Ma noi abbiamo fatto la nostra selezione, quindi questa sarà la selezione di questo Natale, Natale 2017, da parte del Soundcheck di Radio 24. Allora, direi di partire con una pubblicazione recente. Sento qualcosa, che cos'è che sta suonando? Il forno di Bomarzi. Allora, direi di partire con una pubblicazione recente, si intitola Nat King Call and Me, il nuovo album di Gregory Porter. Ma di che c'entra con Natale? C'entra perché all'interno, come proprio bonus track, proprio l'ultimo brano di questo album, Gregory Porter lo ha dedicato proprio al Natale, realizzando che cosa? Una delle canzoni di Natale più belle forse che siano mai state scritte. Forse una delle più belle, scritta dal grande Mel Tormé. Il brano è The Christmas Song al Soundcheck di Radio 24. La voce di Gregory Porter, ormai un colosso della discografia jazz, ha già vinto i Grammy Award per i primi album prodotti, no? Eh sì. Quindi sforna questo Nat King Cole and Me, regalando il suo tributo alla grande voce di Nat King Cole, e fra i brani ritroverete anche questa The Christmas Song, composizione del bravissimo Mel Tormé. Quindi, parlando del meraviglioso Mel Tormé, uno dei protagonisti della vocalità jazz di tutti i tempi, e la voce di Gregory Porter, e avendo io anche una fotografia insieme a Gregory Porter e Kurt Elling, chi ho scelto per continuare questo airplay di Natale? Aspetta, fammi indovinare. Pensateci bene. Cartelling. Bravo, ti darò una zeppola fatta da Bomarzi. Non ci avevi pensato. Sì, Cartelling, anche lui si è lasciato andare alle canzoni di Natale, ma è una pubblicazione dell'anno scorso. Eh sì, ma ormai in tanti sperimentano, si cimentano, diciamo, in questo repertorio. E chi lo ha fatto fra gli italiani quest'anno? Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso, il nostro sorpresa. Fabrizio Bosso, che ha chiamato a cantare nell'album Karima e il bravissimo Walter Ricci. Però lo ascolteremo dopo, Fabrizio Bosso. Sì, lo ascolteremo. Direi intanto di andare con un'altra composizione meravigliosa, questa scritta da Donny Hathaway. Purtroppo non è una delle canzoni più famose, cioè non è una canzone che ha portato a Donny Hathaway, che so, il successo di White Christmas per Bing Crosby o il successo anche della The Christmas Song per Mel Tormé, però è una canzone che oggi si sta facendo notare proprio perché ha un tipo di struttura molto particolare, tant'è vero che Cartelling, che ha un gusto sopraffino, non poteva non selezionarla per la sua compilation. This Christmas di Donny Hathaway, la voce è quella di Kurt Elling. La brasiliana, ma ormai residente a New York da tempo, Eliane Elias con I'll Be Home for Christmas, qui al soundcheck di Radio 24, puntata naturalmente in questa giornata di vigilia dedicata alle più belle canzoni di Natale, perlomeno tutte le canzoni che all'interno del titolo hanno presente il termine Christmas. E beh, ho lavorato in questo modo qui, che dovevo fare? Beh, abbiamo... no, è una bella idea. Oramai noi facciamo le puntate per Natale da 5 anni al Soundcheck Radio 24. Ogni anno bisogna inventarsi una cosa diversa. Sì, un anno abbiamo fatto il gospel, l'anno scorso l'abbiamo fatto con mio padre, no? Sì, sì, esatto. Abbiamo scelto tutte le canzoni di Natale fatte in chiave jazz, quindi ogni anno tocca inventarsi qualcosa. Quest'anno il concept è proprio il termine Christmas. Tant'è vero che per selezionare i brani anche da questo album nuovissimo del nostro meraviglioso Fabrizio Bosso, ormai trombettista di fama internazionale, ho operato lo stesso criterio, perché avrei pure potuto scegliere le canzoni cantate all'interno dell'album da due voci italiane bellissime come quella di Karima e di Walter Ricci. Sì, che sono purtroppo fortissimi. Questi due signori hanno cantato canzoni senza la parola Christmas. Invece Fabrizio Bosso con il quartetto ci fa ascoltare questa Merry Christmas Baby, una vecchia composizione rivisitata con i suoi ragazzi, che vado a salutare e ai quali vado anche a augurare buon Natale, e sono i miei amici Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Naturalmente auguri a Fabrizio Bosso, Karima e Walter Ricci per questo bellissimo album. Fabrizio Bosso Quartet, Merry Christmas Baby, al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Sì, quando si ascolta un super classico come Have Yourself a Merry Little Christmas, bellissima melodia, splendida composizione interpretata in questa occasione dai Take Six, qua si fa scopa, potrei dire. Andiamo al top di gamma per questa vigilia di Natale. Beh, ti piace vincere facile. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine anche questa nostra vigilia, adesso ci separeremo. Mi dispiace un po', tu vai a casa perché sei già fritto. Stanno aspettando tutti per continuare con la ho frittura. Ho questa responsabilità di sbrigarmi di tornare a casa perché sennò non mangiano. E tu invece che hai fatto? Hanno già cucinato per te, non devi cucinare tu. Sì, certo, tardissimo. Hanno già cucinato finché altrimenti... torni a casa, anche perché un po' di traffico lo trovi adesso. Sì, sicuramente. Io invece sono qui, non mi muovo dallo studio. Ti serri dentro. Viene qualche parente. Qualche parente verrà a trovarmi, spero. Non è detto. Non è detto. No, sicuramente. Faccio anch'io il pesce dei sofficini, ho fatto. Come i sofficini? Sofficini, Natale, di merluzzo con delle patatine fritte sempre messe nel forno, un Natale veramente... Non ti credo. No, non mi credi, No, secondo me va bene, allora lasciami comunque augurare buon Natale a tutti gli amici di Radio 24, noi ci risentiamo sabato prossimo. Ecco, tra l'altro dobbiamo preparare invece il Capodanno perché siamo in onda. Anche quello. È giusto, pure siamo in onda, no? Siamo il 31. E siamo in onda, sì, ragazzi. Allora tocca organizzare. Che facciamo? Festeggiamo insieme? Beh, a sto punto, una volta che siamo qua, perché non festeggiamo insieme? Mi trovo in imbarazzo, volevo andare a sciare, però a questo punto... Tu vuoi andare a sciare? Dai, ma dove vai? Ci vai il 1° gennaio, non il 31. Comunque un passo alla volta, ragazzi, e vigilia di Natale, concentriamoci sulla vigilia. Noi vi lasciamo con un super classico, forse la canzone di Natale più famosa in assoluto. Sì. Che è White Christmas. La voce è quella di una campionessa dello swing e del jazz contemporaneo come Diana Krall. Quindi quale modo migliore per chiudere questo appuntamento con il nostro programma, con il nostro soundcheck. A tutti voi buon Natale di cuore da Gegè Telesforo, Francesco Doromba e Riccardo Bomarzi. Auguri a voi ragazzi, auguri, vi voglio bene.